Letture di Radio 24. Un quarto delle famiglie italiane non paga il canone RAI. Quei 110 euro che i cittadini dovrebbero versare all'emittente pubblica scrivono e raccontano la storia di un paese diviso, anche sul canone. A 150 anni dall'unità, l'Italia si racconta. Da Collobiano a San Cipriano d'Aversa, dal Piemonte alla Campania, da un comune di 130 anime a una cittadina di 13.000 abitanti. E lo fa con poco più di 110 euro. Questa è la somma che i cittadini del paese, famiglia per famiglia, dovrebbero pagare alla RAI per il canone annuale. Dovrebbero, appunto. Meglio non spingersi oltre il condizionale, perché il dovere stabilito per legge nel percorrere il migliaio di chilometri della penisola si declina in un arcobaleno dalle numerose sfumature. Così, se in media una famiglia su quattro non apre il portafoglio per l'abbonamento, succede invece che a Collobiano, in provincia di Vercelli, le 37 famiglie del paese paghino il canone con sabaudo senso del dovere. E un po' di malumore perché, ahimè, spiega al Sole 24 Ore il sindaco, dalla conversione al digitale in paese i canali RAI si vedono davvero male. A molti dialetti di distanza, nel cuore del regno di Napoli ma in provincia di Caserta, le famiglie di San Cipriano d'Aversa rispondono all'obbligazione annuale del canone con voce impercettibile, come se quel 7% di paganti potesse solo sussurrare la propria diversità. Insomma, se per unire i 7 stati d'Italia ci sono voluti circa 2 anni, per raccogliere la chiamata della radiotelevisione non ne sono bastati 56. E così, in tanti anni di TV, quel canone nato in bianco e nero e spinto dal successo dei quiz di Mike Bongiorno non è riuscito a diventare stemma nazionale. E in netto contrasto con il trend che ha caratterizzato la diffusione della scatola magica nelle famiglie italiane, quelle stesse ormai da 13 anni sono sempre meno disponibili a pagarne il costo annuale. Il bilancio? I nuclei aumentano, gli abbonamenti pure, ma le famiglie in regola con il canone diminuiscono percentualmente. La frattura è tale che anche l'ultimo spot della RAI, tutto giocato sul suo ruolo di riunire terre separate da dialetti, ha provocato invece un'ampia ondata di proteste. Avete ascoltato la lettura dell'articolo L'evasione silenziosa, un quarto delle famiglie non paga il canone RAI, di Rosalba Reggio, pubblicato dal Sole 24 Ore di lunedì 14 febbraio. Letture di Radio 24. Hollywood a caccia di chi vuole morire sul set. Niente di macabro, è solo finzione, ma il mondo degli attori specializzati nel ruolo di cadavere è diventato di primo piano. Thriller e polizieschi sono i generi che stanno foraggiando Hollywood e un buon numero di attori cadaveri è indispensabile. Ci sono i manichini, è vero, ma ci vogliono 2 settimane per costruirli e quasi $8.000 per acquistarli. Ragazzi, vi restano pochi minuti da vivere. Così Amy Chozick comincia le sue giornate ogni mattina alle 8 in punto, con l'annuncio della sua prossima morte. La Chozick fa parte di un esercito di attori specializzati in un suo ruolo, quello del cadavere. È un mestiere in rapida crescita, visti i gusti del pubblico televisivo, che sta plebiscitando thriller e polizieschi sempre più violenti, per non parlare di intere serie a puntate centrate sui medici legali specializzati in autopsie. Nella top 10 dei serial televisivi più popolari in America, ben 7 usano sistematicamente attori morti. Non è proprio la strada maestra verso la celebrità, ma fra i tanti ruoli delle comparse, quello del cadavere è tra i meglio remunerati e in questo periodo di alta disoccupazione, la morte sul set offre una sicurezza invidiabile. Tariffa sindacale $139 per la giornata standard di 8 ore. In più l'attore cadavere, spiega la Chozick, incassa $100 supplementari quando gli chiedono di posare per fotografie da vivo, necessarie nel film per ricostruire la sua identità e la sua storia precedente. Altri extra, dai $14 ai $18 al giorno, vanno a chi deve sottoporsi ad estenuanti prove di trucco. immobile per ore, mentre il mago degli effetti speciali gli applica sul corpo ferite sanguinolente, fori di pallottole, mutilazioni orrende. Uno di questi maestri del trucco sanguinolento è Matthew Mangle, premiato con un Oscar per gli effetti speciali, un Dracula nel 1992. Nel suo laboratorio ha già pronte centinaia di protesi, finti petti squarciati da lacerazioni orrende, oppure membra parzialmente tranciate. E non bastano mai. Credi di aver immaginato tutti i modi possibili per morire, dice Mangle, ed ecco che un regista ti spiazza e scogita un'altra soluzione per fare a pezzi la vittima. Mangle incolla quei brandelli di corpi maciullati sulle comparse, poi aggiunge il sangue. Di solito una miscela a base di sciroppi e melasse liquide. La scelta finale su quanto sangue far vedere la prenderà il regista. Dipende dal modo in cui è morta la vittima, ma anche da quanto pensa che la sua audience televisiva voglia sopportare. In quanto a sopportazione, i veri campioni sono proprio i poveri attori. Devono essere sul set per prime alla mattina presto, stare fermi ore mentre gli si applica il trucco. Poi viene il momento del ciak si gira, e anche quella è una sofferenza. L'immobilità è totale, trattenendo il respiro. È più difficile di quanto si pensi. E io sono fortunata, dice Amy Chozick, a recitare la parte della vittima recente. Quelli che devono fare i morti all'obitorio faticano molto di più. Ci vogliono fino a 3 ore d'attesa, perché il trucco di gesso gli si asciughi addosso e dia alla pelle quel biancore che ci vuole. La Chozick in realtà è fortunata per un'altra ragione. Il suo mestiere a tempo pieno non è quello della comparsa morta. Lei è una reporter del Wall Street Journal. Ha ottenuto dai produttori di Law and Order, della NBC, il permesso per lavorare da cadavere in uno degli episodi, per sperimentare di prima mano una settimana di vita di questa categoria di attori. In un'era in cui quasi ogni mansione umana sembra sostituibile con l'automazione, perché gli attori cadavere sono così richiesti? La verità è che esistono manichini per sostituire le comparse in carne ed ossa, ma non sono mai altrettanto realistici e soprattutto costano molto, molto di più. Ci vogliono 2 settimane per costruire in laboratorio un cadavere manichino e costa quasi $8,000. Ecco un campo in cui il fattore umano è ancora vincente. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Federico Rampini Il cadavere è una star, Hollywood dà la caccia a chi vuole morire sul set, dalla Repubblica di giovedì 10 febbraio. Napoleone, Vittorio Emanuele III di Savoia, detto Sciaboletta, Wagner, Stendhal e tanti altri piccoli sono entrati nella storia perché a volte essere alti non significa essere grandi. Così anche alla Camera si discute di abbassare al 1,50 m la statura per l'ingresso nell'esercito. Napoleone era piccolo, anche Wagner. Al contrario, Casanova era altissimo. Stendhal, tarchiato come i Bovari, con pancette e pappagorgia, delle illustrazioni oleografiche 7-800, inventò eroi magri e alti, i padri anoressici delle lettere, e Vittorio Emanuele III, il più piccolo dei Savoia, detto Sciaboletta, costrinse il regio esercito italiano ad abbassare la statura per il reclutamento, che altrimenti si sarebbe dovuto riformare anche il re. Alto, basso, medio. Qual è l'altezza migliore? Impossibile rispondere, anche perché i canoni estetici cambiano troppo rapidamente per offrire soluzioni sicure. Possiamo soltanto dire che in taluni periodi è meglio essere atletici tendenti all'alto, come prova il complimento che Alberto Sordi disse a se stesso in Un americano a Roma. Ammazza che fusto! In altri invece non conviene esagerare, come suggerisce una battuta che Napoleone sibilò tra i denti a quella volpe di Talleyrand mentre gli passava il cappello. Non siete grande, ma solo alto. Certo, ora si discetterà di altezza sino a stancarsi, giacché è in discussione alla Camera la proposta di abbassare la statura per l'ingresso nell'esercito. Sino ad ora vale l'1,65 per gli uomini e l'1,61 per le donne, ma si ventila l'1,50 per tutti. Che dire, la storia politica italiana può offrire esempi per risolvere ogni problema, cominciando da Amintore Fanfani. Sembra non ricorresse a protesi nelle scarpe per guadagnare i centimetri dell'onore, anzi chiedeva senza problemi pacchi di giornali per meglio arrivare al microfono dei comizi. I legislatori comunque tengono conto che Giorgio Vasari nelle sue vite analizzò coloro che son creati dalla natura piccoli di persona e di fattezze. e concluse che se non cominciano cose difficili e quasi impossibili, e quelle non rendono finite con maraviglia di chi le vede, mai non danno requie alla vita loro. Insomma, perfetti per l'esercito. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Abbassare la statura per l'esercito? Quando alto non vuol dire grande» di Armando Torno, pubblicato dal Corriere della Sera di lunedì 14 febbraio.